9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 26 di novembre. Tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse. E oggi ci occupiamo, guarda caso, di questa novità. Tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, sempre buone a metterne di nuove. E sempre, naturalmente, buone oramai a non levarle quando servono. La puntata è divisa in due. Ieri, come vi abbiamo annunciato, l'autorità che presiede le comunicazioni, la GCOM del nostro paese, ha pensato bene di equiparare praticamente chiunque sotto una modestissima soglia di giro d'affari metta un qualunque video in rete a una televisione. Quindi bisogna aprire un registro, bisogna pagare una tassa. Io sul mio Chicago blog, secondo l'autorità delle comunicazioni, se metto d'ora in poi i miei video con i miei editoriali eccetera eccetera, sono a tutti gli effetti una televisione. Cioè devo aprire un registro, mettere una tassa, pagare. Questo è perché sarebbe internet libero. Questo, ci occupiamo di questo nei primi 20 minuti. Nei secondi 20 minuti ci occupiamo delle 3.433, avete capito bene, 3.433 aziende, imprese che sono ferme sotto i colpi dell'alluvione in Veneto, delle oltre 100.000, sì, segnatevi questa cifra, 100.000 imprese danneggiate. Questo è quello che è la lista dei danni economici dell'alluvione in Veneto. Le cifre delle 3.433 e 100.000 sono le prime approssimazioni a cui giunge l'opera del commissario straordinario, che è il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Lo Stato continua a non dare risposta sull'esenzione e la moratoria delle scadenze fiscali. Ricordo che la scadenza fiscale più prossima, essendo già passata quella del 16 e si era in tempo per evitare anche quello, è quella del 30 novembre. Ricordo a tutti che nel caso del terremoto in Friuli ci fu l'esenzione dal tributo per 5 anni. Perché lo Stato è così abile nel mettere tasse nuove ogni giorno? Perché lo Stato, nemmeno di fronte a migliaia di imprese della parte più produttiva del nostro nord-est, che è la parte più manifatturiera d'Italia oramai, riesce a capire che bisogna evitare che queste imprese, oltre ai colpi che hanno avuto con i capannoni invasi dall'acqua, i macchinari che non sono in condizioni di ripartire, ripeto, 3.433 aziende ferme, perché lo Stato non riesce a capire che c'è bisogno di un elementare buonsenso? Perché ne è sprovvisto? Sì, ne è sprovvisto, perché oltre a essere sprovvisto di buonsenso è anche malafede? Sì, è malafede. Dice il gettito deve difenderlo, non deve difendere il gettito in questo caso, perché difendere il gettito nel caso delle imprese venete significa imporre loro con maggiore probabilità di non poter fronteggiare l'emergenza. Una volta che le facciamo chiudere queste 3.433, molte di quelle altre 100.000, casomai siamo tutti più contenti del PIL in meno che viene. Sapete che ogni provincia veneta esporta quanto paesi come la Grecia, il Belgio, eccetera, eccetera? Ce lo siamo dimenticati? Che cos'è? La politica non riesce a leggere i dati dell'economia italiana? Può solo incassare, solo. L'unico dato che legge è quello dell'Agenzia delle Entrate? Sì, sono un po' arrabbiato, come avrete capito. Allora, in questa prima parte della trasmissione, ripeto, vi illustriamo la delibera, perché sono molto curioso di conoscerne i particolari, sul cui arrivo ci aveva avvisato e lo avevo pubblicamente riconosciuto, espresso la mia gratitudine e quella di tutti coloro che leggono il suo blog, Stefano Quintarelli, che è un imprenditore, è uno dei pionieri nell'introduzione commerciale di internet in Italia, che ci aveva fatto un fischio, come fa quotidianamente col suo blog dicendo guardate che alla GCOM domani, cioè ieri, c'è all'ordine del giorno questa bella trovata di equiparare i poveretti come Giannino praticamente a delle televisioni. Io francamente ero abbastanza incredulo, invece pare che le cose siano andate esattamente così. Non credo che la delibera sia stata adottata, da quello che ho capito, all'unanimità. In ogni caso noi chiediamo a Stefano Quintarelli, che ringrazio ancora per questo suo ruolo di sentinella sul fronte del digitale, per avermi segnalato il caso, e quindi oltre a ringraziarlo lo prego di continuare, anche perché in questo mondo se ci mettono le tasse e tu non te ne rendi conto, poi alla fine diventerò evasore per forza. Quindi Stefano Quintarelli, grazie a te e buona giornata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E abbiamo con noi Nicola D'Angelo, che è commissario dell'autorità per le comunicazioni, e mi sembra giusto che poi avere la voce dell'autorità per evitare che gli estremisti pazzi come me vi diano pessime informazioni. Grazie a Nicola D'Angelo, buongiorno. Allora, posso chiedere intanto al commissario D'Angelo come sono i dettagli e come la storia di questa delibera per la quale, oltre una soglia d'affari di 100.000 euro, quindi una qualunque onlus è sopra, io sono sopra pur non essendo una televisione né un imprenditore, se chi posta video deve tenere un registro, deve pagare una tassa? Sì, intanto insomma io non sono proprio esattamente l'alternativa all'estremismo di cui parla lei, perché io ho votato contro, non solo, ma nei mesi passati mi sono dimesso da relatore di questo provvedimento in segno di protesta, quindi sta sentendo una parte dell'autorità, diciamo così, fortemente contraria al provvedimento. Detto questo, che cosa è successo ieri? Ieri è passato un provvedimento che peraltro ha la sua genesi in una norma che è stata scritta dal governo, dal decreto Romani, che ha esteso sostanzialmente, a mio modo di vedere, del tutto impropriamente il tema televisivo al web. È l'unico caso italiano, quello nel mondo, in cui è avvenuto questo. È passata questa norma che dice che tutte le web TV e le radio sul web che superano i 100.000 euro di fatturato, poi su questo se vuole ci possiamo poi trattenere in particolare, insomma, comunque devono assoggettarsi alle regole che sono proprie delle televisioni, quindi devono pagare una tassa che è 500 euro nel caso della televisione, 250 della radio, ma non è tanto questo. Sono meccanismi burocratici di autorizzazione generale e poi una serie di obblighi che, insomma, sulla rete io francamente non riesco neanche a capire come verranno: diritto di rettifica, la lista dei programmi, il registro dei programmi, la responsabilità editoriale, e tutta una serie di il tema della pubblicità, degli indici di pubblicità che si possono fare, cioè questioni che francamente con la rete non hanno nulla a che vedere. E l'altro grande tema di dubbio, a mio modo di vedere, è quello relativo ai cosiddetti aggregatori, per esempio YouTube, per capirci, perché lì si dice che questi soggetti non sono assoggettati al regime di questo regolamento nella misura in cui non abbiano una responsabilità editoriale e non siano in concorrenza con la televisione. Ora è difficile poi stabilire chi stabilirà appunto questo, in che misura, quindi rischiamo di fare appunto dell'Italia un caso del tutto peculiare. L'unica cosa positiva che è successa, diciamo, se si può dire questo, grazie anche al fatto che appunto alcuni di noi, io e un altro commissario, ci siamo nettamente schierati contro questa cosa, che hanno escluso chiaramente, perché non era neanche chiaro questo, i giornali online, sia nella forma di replicazione, diciamo così, della stampa sull'online, sia quelli che sono esclusivamente online. Però per il resto rimangono forti zone d'ombra e un problema, ripeto, che fa dell'Italia un caso del tutto singolare. Però io, messa così, sì, d'accordo, sono risparmiate quindi le imprese editoriali della carta stampata, non sono risparmiati quelli che utilizzano internet, i think tank, una qualunque organizzazione o associazione che utilizzi a quel punto i filmati su internet. Ripeto, 100.000 euro l'anno non sono un bilancio che fa una televisione. Allora, quello che chiedo a Quintarelli di farci capire è: si sbaglia e siamo troppo in malafede se pensiamo che questo provvedimento sia figlio di una mentalità che a questo punto io non esito ad attribuire a questo governo, a questa maggioranza, che con l'idea che si risparmiano le aziende editoriali online, ma invece a tutti gli altri si impedisce o comunque si scoraggia l'utilizzo della rete per i video, perché l'idea è che qualunque video in rete è come televisione. Il risultato è che in realtà questo provvedimento, sarò in malafede, ma mi sembra una difesa unilaterale delle televisioni come sono il più possibile monopoliste persino della rete. Cioè l'idea è che se utilizzi la rete, filmati in rete, sei una televisione e quindi a questo punto state lontani perché la televisione già c'è. Capisco che il mio ragionamento è un po' tirato per i capelli, ma quanto è tirato per i capelli agli occhi dell'esperto come Quintarelli? Ma guardi, allora, intanto riguardo il recepimento della direttiva europea sui servizi audiovisivi, e effettivamente lì c'è un tema di regolamentazione delle televisioni online, no? Ed è chiaro che stiamo andando incontro a una convergenza, per cui sarà difficile definire cos'è una televisione, perché naturalmente tutto tenderà a finire sulla rete. Allora le televisioni sono oggi soggette a delle regole, penso alla tutela dei minori piuttosto che all'incentivazione del cinema, queste cose che insomma in qualche modo bisogna trovare una quadra. Quello che a me pare francamente eccessivo è considerare questi limiti, cioè non vedo l'utilità, no? Cioè, il limite di 100.000 euro mi sembra una cosa veramente, cioè per dire che quella è una televisione mi sembra una cosa veramente eccessiva. Poi quanto questo sia frutto di una volontà pro televisiva tradizionale, non so se è proprio una volontà o più un condizionamento, non so, un modo di pensare, cioè In Italia siamo stati abituati a tanti provvedimenti che non capiscono la rete, no? Che sono frutto di interpretare un mondo vecchio e cercare di andare a ricalcarlo sull'online. Ecco, io credo che questo sia quello che sta succedendo. Non so dire se questo poi è per un interesse o meno, non credo, perché francamente mi sembra, cioè, televisioni cosiddette tipo, non so, Robin Hood piuttosto che Zorro, queste cose che sono abbastanza popolari in rete, che sono dei singoli che fanno delle cose continuamente basate sul video, non credo che disturbino l'industria televisiva, quindi non credo che abbia un impatto. Mi sembra più che altro veramente una difficoltà di capire che non ha un impatto e quindi in qualche modo regolamentare una cosa in modo eccessivo. Un po' come esprime la stessa difficoltà a capire che cos'è davvero la rete, innestata sul riflesso condizionato della politica italiana di concedere nuovi albi, ordini professionali, più che la pioggia che Dio manda in terra, e il provvedimento che sempre grazie a Bog di Quintarelli ieri abbiamo scoperto, quello adottato il 22 ottobre scorso, che dice che se volete mettere un router in rete anche lì dovete farlo fare solo all'appartenente a un apposito albo, perché sennò anche lì vi beccate la sanzione. Anche in quel caso, Quintarelli, espressione del non capire la rete? Assolutamente sì, e questo incrociato con gli interessi di categorie che non hanno più senso, o quantomeno hanno un senso fortemente ridotto, però in qualche modo hanno delle lobby che cercano di resistere. L'Italia è l'unico paese anche qui che ha recepito questa direttiva europea sulle installazioni in senso restrittivo, cioè mentre la direttiva era volta alla liberalizzazione e lasciava la facoltà per quegli stati che stanno andando verso la liberalizzazione delle telecomunicazioni di disciplinare un albo, beh, l'Italia è stato l'unico invece ad introdurlo, ad interpretare la cosa in senso restrittivo. Di nuovo, è una difficoltà di capire il mondo digitale, cioè non so cos'altro dire, probabilmente ci sono ragioni demografiche in questo. Ecco, forse anche un po' l'età, però ad Angelo, ovviamente, stante che non gli possiamo chiedere giudizi troppo taglienti e troppo critici nei confronti degli altri componenti del collegio rispetto ai quali lui ieri ha votato in dissenso, però gli possiamo chiedere un'opinione su quello che ha detto Quintarelli adesso. Oltre, diciamo così, alla fatica a capire la rete, che certo per un'autorità è un giudizio non troppo commendevole, e oltre diciamo al guardare la storia con gli occhi rivolti all'indietro, quanto pesa il fattore dell'osservatore in malafede giannino che dice si tende a tutelare la televisione com'è e dov'è, e lo si fa assimilando ad essa chi non lo è per niente, e quindi diffidando ciascuno dal poi avere in qualche modo successo facendo opinione utilizzando la rete, sia pur non mettendo un modello organizzativo televisivo al centro della propria esperienza o della propria produzione quotidiana di video artigianali, però magari a chi riuscisse poi da cosa nasce cosa, meglio scoraggiarlo fin dall'inizio. C'è questo elemento che con una punta di malizia io leggo in questo atteggiamento della maggioranza dell'autorità a suo giudizio, oppure sono io che mi invento i fantasmi che non esistono? No, guardi, dunque, che ci sia un problema di approccio ideale alla questione del web, della rete, questo è, diciamo, un fatto incontrovertibile. Non è un caso che l'Italia rispetto ad altri paesi sia indietro anche nell'uso di queste tecnologie, nell'approccio proprio alla questione di internet. E vabbè, questo è un punto, io su questo posso essere d'accordo con Quintarelli, c'è un problema di mentalità che riguarda tutto il paese, poi non so se esattamente sia un fatto di vecchi o giovani, cioè se sia un paese di vecchi e quindi non incapace di... Io conosco tante persone, diciamo, di una certa età che sono abilissime invece nell'uso delle tecnologie. Io le faccio un ragionamento non dietrologico ma di tipo oggettivo, che è il seguente: l'Italia è il paese che presenta la più alta concentrazione nella proprietà dei media. La rete è stata negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, l'unico strumento realmente aperto e, come dire, pluralista in termini anche di diffusione dell'informazione, di presenze anche editoriali, eccetera. E io credo che ci sia anche una componente di questo tipo, cioè l'idea che sostanzialmente attraverso alcune regole, attraverso un apparato burocratico, attraverso un'equiparazione si tende in qualche misura a ridurre la portata degli effetti che ha che ha internet su temi rilevanti come quello dell'informazione. Questo è un fatto oggettivo, non è una dietrologia, e non è un caso che questo sia stato un percorso. È vero che c'era una direttiva comunitaria, altri paesi però l'hanno recepita in modo diverso. Perché in Italia è andata come è andata? Credo che questo non sia un caso, tanto per essere chiari. E quindi quello che conta è l'articolazione dell'offerta così com'è. Naturalmente questo riflesso condizionato tende, come inevitabile, ad avere due conseguenze. Primo, a rallentare l'evoluzione e la convergenza dal basso, cioè su modelli di successo, sul digitale dell'intera industria della comunicazione. Punto numero uno. Punto numero due, cari Topolini in ascolto, è inutile che facciamo finta di non saperlo. La televisione nel nostro paese, molto più che in altri, è intrecciata a doppio filo, con un canapo di quelli belli, forti e pesanti, con la politica. Lo era nella Prima Repubblica per via del fatto che c'era il monopolista pubblico e che nei vent'anni precedenti alla fine della Prima Repubblica era stato messo alle corde da le rompere dal basso di un modello commerciale di successo come la televisione del Cavalier Berlusconi, con tutte le polemiche poi innestate sul fatto, i decreti, vi ricordate quando i pretori interruppero l'aggiramento, per così dire, della diretta nazionale che si faceva con le cassette registrate e trasmesse su ponte da parte del Cavaliere. Dopodiché nella Seconda Repubblica è chiaro che la televisione è diventata ancora più l'espressione principe del conflitto di interesse, perché Berlusconi è sceso in politica e le sue televisioni sono rimaste, resta il gigante pubblico che sempre meno ce la fa. Abbiamo idee molto brillanti come quelle che chiunque oramai abbia una presa elettrica e un contratto elettrico dovrebbe essere soggettato al canone televisivo. Per quello che mi riguarda, se mi vogliono indurre a mettermi una bicicletta a pedali, autoprodurmi l'energia e staccarmi anche dall'Eni, questo può essere sicuramente una delle maniere migliori per farlo, piuttosto le candele che aderire a questo tipo di mentalità. Però tutto questo ha delle conseguenze, soprattutto anche in termini di libertà. Chiedo al commissario D'Angelo, un provvedimento come questo che ha assunto l'autorità ieri, perché chi a casa capisca, perché magari non è esperto delle misure di regolazione italiane, che tipo di possibilità di impugnativa da parte degli utenti di internet avrà? Dunque, questo è comunque un provvedimento amministrativo, non è che sia una legge, quindi qui chi è interessato può andare al TAR e fare ricorso contro questo provvedimento. Tra l'altro, a mio modo di vedere, questo è un provvedimento che, diciamo, deve essere valutato anche sotto il profilo della coerenza con il diritto proprio comunitario. Ricordo che nel diritto comunitario ci sono principi molto forti in tema di garanzia d'accesso alla rete, per esempio nella direttiva sul commercio elettronico e così via. E quindi bisogna vedere quanto coerenza ha questo schema, questo regolamento, sia con la direttiva sui servizi lineari o non lineari, cioè sull'audiovisivo spostato su altre piattaforme, e sia sulla direttiva sul commercio elettronico. Quindi comunque un sistema impugnativo c'è. La cosa grave, tra l'altro, che un tema così delicato, secondo me era bene che, se proprio se lo si volesse trattare, e forse era meglio non farlo, era qualcosa che doveva venire con una legge, non con un provvedimento che sostanzialmente è un provvedimento amministrativo. Nessun paese del mondo si è messo a fare regole sulla rete, diciamo, con normativa di tipo secondario. Gli stessi francesi, che pure sono stati molto criticati con la DOPICO, la legge che cioè andava a chiudere i siti, eccetera, l'hanno fatto comunque per legge, poi la Corte Costituzionale loro è intervenuta, cioè, quindi c'è un tema anche di responsabilità politica di chi adotta queste regole. Un conto è il Parlamento, che comunque risponde al Paese, diciamo, in termini che sono noti, e un conto è un'autorità sostanzialmente amministrativa che non ha forme di responsabilità diretta. Quindi questa è un'altra questione importante anche. Quintarelli, ci vogliamo pensare un pochino con i più bravi tecnicamente che conosciamo, a vedere se riusciamo ad andare al TAR? Assolutamente, assolutamente. Volevo fare un commento a quello, certo, che diceva prima il commissario, che io credo che le televisioni, che veramente ci sia un'incapacità di capire il presente, e adesso forse non è una questione veramente demografica, però, cioè, Zorro, per dire, no? Piuttosto che Robin Hood, effettivamente non portano nessuna minaccia al business televisivo. Cioè, io capisco che ci sia questo retropensiero per cui uno dice no, devo tutelare il bel mondo antico rispetto alla modernità, però queste non sono le minacce. Cioè, le minacce al sistema audiovisivo italiano non verranno dalle web TV italiane che fatturano 100.000 euro, vengono da signori come Apple, come Google. Cioè, sono cose che passano, che hanno una dimensione completamente diversa. Quindi andare a fare una cosa di questo genere è proprio anche anche fosse per, cioè, e secondo me questo retropensiero c'è, no? Per tutelare in qualche modo il bel mondo andato, è inefficace, è proprio sbaglia il target, non so come dire. Quindi io sicuramente se posso fare qualcosa lo faccio, insomma, l'ho fatto in passato, lo farò ancora. Bene, intanto al termine di questa prima parte c'è una telefonata di Dino Bortolotto, subito dopo la fine della sua telefonata, deve essere molto breve, noi andremo in pubblicità. Conclusione, cari ascoltatori, questo provvedimento della GCOM, come avete sentito, non è stato adottato senza che ci sia l'opposizione dei commissari come D'Angelo. L'equiparazione a televisioni di chi è quella sua ridicola e sbagliata dal punto di vista del mercato di cui stiamo parlando, è illiberale per la nuova tassa a cui ci sottopone, ci tappa la bocca a noi che utilizziamo modestissimamente internet, non avendo né giornali né imperi editoriali al servizio delle nostre idee, e poi chi ci vuole venire dietro ci viene dietro. Motivo: vi terremo informati per l'impugnativa diretta al TAR. Qui partiamo dal basso, perché basta lamentarsi, smontiamolo quello che non ci piace. Dino Bortolotto, perché ci ha chiamato? Prego. Buongiorno, salve a tutti quanti e grazie della possibilità di intervenire. Vi ho chiamato perché AssoProvider è l'associazione che a partire dal 2005 ha iniziato a chiedere l'abrogazione totale ed integrale del provvedimento che era in vigore prima del provvedimento del 22/10 del Consiglio dei Ministri. Praticamente il DM 314 del 92 determinava già un meccanismo basato su patentino. Il patentino degli installatori, insomma. Il mitico patentino degli installatori, che aveva delle regole a dir poco ridicole. Ho più volte manifestato la mia perplessità sul fatto che si diventasse dotati il patentino praticamente per osmosi, cioè praticamente se vuoi avere il patentino devi stare per 2 anni in un'azienda che ha già il patentino. Questa è una cosa che ha del ridicolo e mi pare di capire che però che con questo nuovo provvedimento siamo andati di male in peggio. Esatto, infatti mi sto pentendo di averlo incominciato a chiedere, perché tanto valeva lasciare il vecchio, quantomeno le sanzioni erano meno gravi in termini economici. Grazie anche a Dino Bortolotto, grazie ad AssoProvider a quello che fa, ma come vedete la direzione è opposta, ci vogliono gli installatori patentati, perché sennò vi beccano la multa se mettete un router su una rete pubblica. E soprattutto adesso Giannino è diventato una televisione, deve aprire un registro, pagare le tasse come televisione, ma vogliamo ridere davvero. Continuo a pensare, questi politici bisogna mandarceli tutti sui tetti, se ci vanno spontaneamente benissimo, ma soprattutto che ci restino. Pubblicità. Allora, qualcuno inizia a mandarmi dei messaggi preoccupati, c'è chi dice che mi saltano le coronarie, c'è chi invece evidentemente non è d'accordo con gli accenni polemici che ho fatto alla difesa del sistema televisivo intrecciata con la politica, e dice che pippo troppa cocaina. Vi posso rassicurare, non ho mai avuto niente a che fare con nessun tipo di stupefacente, tranne i farmaci quando sto male che mi danno i medici, ma no, l'incazzatura che sentite, la chiamo proprio come viene spontaneo chiamarla a chi è in ascolto, è determinata dai segni che tutti i giorni vanno nella direzione opposta rispetto a chi minoritarissimamente, con grande rispetto per la maggioranza di voi topolini in ascolto, che siete a favore per le tasse perché siete convinti che questo naturalmente significhi più servizi buoni per tutti, che siete a favore delle occupazioni da parte di studenti, professori e politici dei tetti. Scusate se vi faccio riflettere, ma com'è? Quando se ne è sceso un pezzo la scuola dei gladiatori, è successo l'ira di Dio, ha parlato il Presidente della Repubblica, sembrava che l'Italia fosse in ginocchio col suo patrimonio trascurato, un paese di locuste, cavallette che non si occupano. Dopodiché migliaia di ragazzi adesso, spinti da questa bella atmosfera, salgono su tutti i monumenti nazionali, ci vanno i politici, tra un po' non so chi ci va, eccetera eccetera. No, di questo naturalmente non ci preoccupiamo, che migliaia di persone salgono sui monumenti, naturalmente questo immagino che sia la miglior dimostrazione della tutela del nostro strepitoso patrimonio artistico culturale. Capite di quanta ipocrisia è fatto il dibattito pubblico italiano? Per chi minoritario nell'angoletto come me paga il suo 67% e scopre ogni giorno che c'è una tassa nuova e rimane senza parole di fronte al fatto che per gli effetti dell'alluvione nel nord-est, a Vicenza, nel Veronese, a Treviso, ripeto i dati, 3.433 aziende ferme da allora, oltre 100.000 danneggiate nel cuore della parte che è quella più manifatturiera del paese. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di dipendenti che non rappresentano solo un bene per quella regione e per il nord, Stiamo parlando del cuore della manifattura organizzata in filiere che esporta di più, cioè quella che fa il 70% della crescita breve del nostro paese, quella che in province sole come Vicenza esporta quanto l'intera Grecia. È possibile mai che noi ci troviamo nella condizione, di fronte a questi dati, di non capire automaticamente che, per esempio, le doppie scadenze di novembre, quella del 16 e quella del 30, che oramai è tra due giorni, avevano bisogno di un'immediata prova da parte dello Stato, oltre ai 300 milioni che sono stati attribuiti per le procedure d'urgenza al commissario Luca Zaia, quelle di sospendere intanto tutte le scadenze fiscali. Lo ripeto, ai tempi del Friuli ci fu un'esenzione totale dei tributi per 5 anni. Che cosa è cambiato da allora? Perché adesso bisogna mettere ancora più in ginocchio il cuore della manifattura italiana? Perché cosa bisogna fargli pagare? La voglia di lavorare che ha, a differenza di altri? Allora, ci siamo messi al servizio fin dal primo momento di quello che era successo in Veneto. Tra l'altro oggi c'è anche la neve che ci mette il suo, con la 4 bloccata tra Verona e Vicenza. Poi ve ne daremo informazioni con le informazioni sulle strade. Però oggi apriamo i microfoni ancora una volta per dare voce agli imprenditori, naturalmente del Veneto, per interrogarli su come mai, a loro giudizio, lo Stato questa volta tarda a dare risposta. Avevamo un appuntamento telefonico con il commissario straordinario Luca Zaia per testimoniare e consentirgli a lui di dirci, essendo andato a Roma fino all'altra sera, a tentare di ottenere una risposta di ragionevolezza da parte del Ministero dell'Economia. Restiamo in attesa di Zaia e intanto con Luciano Vescovi, il vicepresidente della Confindustria di Vicenza, gli chiediamo di farci un rapporto aggiornato della situazione e di dirci quante davvero di queste 3.433 a occhi e croce rischiano ciò che fa male al cuore dover ammettere per colpa di un'alluvione, oltre ai guai della crisi. Come stiamo messi, Vescovi? Ma oggettivamente devo dire questo, visto che noi non abbiamo l'abitudine di fare i piagnoni, effettivamente, soprattutto per il settore industriale, la situazione non è che sia così catastrofica. Ci sono molti esercizi commerciali in difficoltà, molte aziende anche artigianali, ma la delusione grossa è un'altra, guardi, anche se oggi non vorrei assolutamente sparare contro il governo, visto che sembra essere in questo preciso istante lo sport nazionale, in questo momento abbiamo bisogno invece di governabilità, quindi non spariamo contro il governo, semplicemente diciamo che l'ordinanza che fece Berlusconi qualche giorno fa, il 39-06, qualcosa del genere, non mi ricordo, ci ha deluso per i contenuti, cioè credevamo che almeno in questa occasione fosse possibile ricorrere a una autocertificazione della situazione e poi dopo, con tutti i tempi dovuti, si andasse a verificare con le perizie e quant'altro. Invece ci siamo trovati di fronte di nuovo a un approccio burocratico a questa emergenza. È questo che ci ha molto delusi, perché in queste situazioni nessuno qui in Veneto credo volesse approfittare, non fa parte del nostro DNA, abbiamo altri obiettivi, diciamo gli obiettivi sono il mondo, il commercio mondiale su cui si basa la nostra industria, quindi la forte delusione è l'approccio burocratico. Era un'ordinanza che secondo me non rifletteva nemmeno lo spirito di Berlusconi, sinceramente, era burocrazia pura. Beh, sicuramente io capisco, e dello spirito anche del sistema delle imprese italiane, quello in questo momento di battersi perché prevalga la governabilità su un quadro politico che si disfa di fronte a polemiche personali nel contesto di un'Europa che vede l'Europa rimesso, l'euro rimesso fortemente a rischio, con prospettive che altri nuovi paesi si aggiungano dopo l'Irlanda, che si è già aggiunto alla Grecia sulla scia della lista dei paesi sospettabili di insolvenza. È tutto vero, ma certo qualche considerazione su questo ritardo, per così dire, per cui prevale l'amministrazione ci fa pensare. Si è collegato con noi il presidente della Regione Veneto e lo ringraziamo, il commissario straordinario, per riferirci a che punto sta la trattativa con il governo centrale, innanzitutto su questa questione delle moratorie per gli adempimenti fiscali, che oramai, quello del 30, sono dietro l'angolo. Buongiorno Zaia, che ci può dire? Buongiorno direttore, buongiorno. Ma le dico che noi abbiamo innanzitutto raccolto tutti i dati delle imprese alluvionate, delle imprese che comunque hanno sospeso la loro produzione. E dall'altro siamo in fiduciosa attesa, ho parlato con il ministro Tremonti in più occasioni, l'Agenzia delle Entrate è sul pezzo, direi che insomma all'orizzonte si intravede il sereno. Ecco, naturalmente noi non, lei capisce che dobbiamo da una parte dar voce alle imprese, dall'altra noi diamo voce a lei perché così di fronte a qualche resistenza burocratica dell'Agenzia delle Entrate si capisca che non c'è solo il Veneto e il suo presidente, ci sono tutti gli imprenditori del Veneto, c'è l'apporto che voi e loro danno all'economia nazionale. L'impressione che ha, non le chiedo alcuna polemica, lei deve portare a casa il massimo risultato senza fare polemica con nessuno, però di fronte al fatto che in Friuli ci fu l'esenzione per 5 anni, come mai, che cosa è cambiato secondo lei? È l'emergenza gettito da reperire, quindi ogni euro di tasse anche da chi è disastrato è prezioso, oppure l'esperienza del passato adottata in altri eventi straordinari ha insegnato allo Stato che è meglio non procedere a queste cose perché altrimenti in troppi ci si ficcano e quindi si teme che avvenga anche in Veneto? Che sensazione ha? Ma innanzitutto le dico che noi abbiamo fatto una raccolta dei dati molto puntuale e precisa, per cui il fatto che ci sia l'assalto alla dirigenza da noi non accadrà e non accade in queste ore. Dall'altro le devo dire che la prova provata, diciamo questa difficoltà, comunque questa volontà di andare ad approfondire da parte del governo, dell'Agenzia delle Entrate, è la prova provata che noi siamo un territorio indispensabile al Paese. E esentare l'Aquila dalle tasse aveva un peso da un punto di vista economico-finanziario, esentare le mie province ci rendiamo conto che è qualcosa di importante. Io vengo dalla provincia di Treviso che esporta come la Grecia, e se lei pensa che in provincia di Vicenza, una delle province alluvionate, una impresa su 4 ha avuto l'alluvione, immagino che il ministro Tremonti debba fare i conti per bene. Il momento economico è quello che è, la crisi attanaglia il mondo intero, però altrettanto vero che la locomotiva d'Italia non può essere fermata dalla mancanza di questi provvedimenti. Noi assolutamente abbiamo necessità di dare un segnale ai nostri imprenditori. Ragionevolmente lei ritiene, per gli elementi che ha in mano e senza voler mettere naturalmente il carro davanti ai buoi, che entro la giornata di oggi, in vista degli adempimenti fiscali previsti per il 30 per esempio, si potrà avere con qualche speranza una risposta concreta, o bisogna aspettare ancora l'inizio della settimana prossima? Guardi, ragionevolmente io penso che si andrà all'inizio della settimana prossima. Noi abbiamo consegnato di fatto delle liste pressoché definitive, lo dico perché comunque non è facile fare un censimento in così pochi giorni e che sia serio, aggiungo, e ieri sera. Stiamo peraltro anche facendo un lavoro accessorio, raccogliendo anche partite IVA e codici fiscali, onde evitare che qualche romano in qualche sperduto ufficio ci dica che mancava qualche dato ulteriore. E io spero che all'inizio della prossima settimana si abbiano delle risposte. Guardi, questo è un territorio che non ha mai evitato di dire che se le risposte non arrivano è inevitabile che i soldi ce li abbiamo qui in casa, vorrà dire che li tratteniamo. Va bene, Presidente, noi ci nel corso delle nostre magari successive edizioni, in questo fine settimana, lei lo sa, ogni tanto noi ci facciamo vivi, perché Radio 24, questo è un punto d'onore, essere radio di servizio, al vostro servizio, del territorio, delle imprese, e in piccolo, pur senza voler fare gli agitatori in questo paese che ne ha fin troppi, qui tutti salgono sui monumenti, pensiamo che sia la maniera migliore per dare forza a chi si batte perché i territori abbiano il giusto. E quindi per questo, senza nessuna polemica, grazie Presidente per averci dato questi minuti. Ora abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale e poi torniamo con Vescovi e un po' di telefonate. Eccoci tornati qui in diretta per gli ultimi minuti, e con noi Luciano Vescovi, il vicepresidente di Confindustria Vicenza. Sentiamo qualche telefonata, cominciamo con Alessandro che ci chiama appunto da Vicenza. Sì, buongiorno dottor Giannino. Dica Alessandro, a lei, buongiorno. Agli ospiti e soprattutto a Zaia per il grosso lavoro che sta facendo in termini di raccolta dati. Io le volevo dare un, come dire, visto che lei è sempre molto pragmatico, un dato effettivo. Io abito nella parallela del Bacchiglione, quindi immagini come ero coinvolto nella cosa. Sì. Sono tra i fortunati che era il secondo piano, che non ha avuto danni e che quindi ha dato una mano alle persone che erano vicine. Però qua, le dico questo, lei se poi lo sviluppa mi fa una grossa gentilezza. Qui in Veneto, con spirito pratico, sono convinto, anche nel mio lavoro l'ho scoperto perché faccio il rappresentante, che ci siamo già noi veneti messi via che lo Stato fa un poco. Abbiamo già iniziato ad aprire le attività, io ho la conferma di molte persone giovani che avevano piccoli bar, piccoli esercizi commerciali, qualche piccola osteria e ristorante, che sono andati a chiedere soldi ai genitori pensionati, hanno fatto un ulteriore prestito, cioè si sono già mossi partendo dal presupposto che lo Stato non farà nulla, e se arriverà qualcosa, quel qualcosa che arriverà sarà comunque in più, perché la percezione che abbiamo nei veneti, e glielo posso garantire veramente, è che lo Stato anche questa volta farà gran poco. Io capisco che lo stato d'animo di Alessandro è uno stato d'animo che poi si è letto in progredire evolutivamente nel comportamento elettorale, nel comportamento pubblico di una parte crescente dell'opinione pubblica italiana, concentrata soprattutto a nord, credo non più solo a nord. Quindi io credo che Alessandro dia voce a un'opinione che secondo me è molto più diffusa di quanto la politica creda. Del resto mi rendo conto che è molto delicato apparire coi tempi che corrono impegnato su questo, perché alcuni ascoltatori mi dicono: ma come, tu sei contro l'informazione che fa demagogia, poi alzi la voce anche tu, che cosa bisogna pensare? Devo spegnere la radio perché alzi la voce anche tu? Mi rendo conto che può apparire contraddittorio chiedere con passione che si mettano dei freni a degli eccessi che dal nostro punto di vista appaiono veramente eccessi improponibili, perché voi capite che la prima parte della trasmissione l'abbiamo fatta su un provvedimento che sui giornali non trovate e che dimostra però l'incompressione dell'evoluzione di un settore, l'idea che sempre nuove tasse, l'idea che per difendere le televisioni che ci sono bisogna impedire la libertà su internet, ed è un esempio sul quale alzare la voce serve a bucare il silenzio mediatico. Lo dico anche perché non vorrei sembrarvi matto, davvero c'è un po' di tecnica in questa roba qua, siccome non c'è oggi questa roba sui giornali proposta con la giusta evidenza, visto che interessa milioni di consumatori della rete. Allo stesso modo, poiché sui giornali italiani fuori dal Veneto, che ci aprono i giornali veneti con la notizia delle migliaia di imprese venete e del governo che non risponde sulle tasse, questa è la ragione per cui non solo lo facciamo per coprire in termini di servizio le imprese del Veneto, come abbiamo sempre fatto da poche ore dopo aver capito che cos'era con l'alluvione in Veneto, ma perché serve cambiare il tono, come ho fatto programmaticamente, a farvi riflettere sul fatto che quelle imprese non sono semplicemente quelle imprese in difficoltà, non c'ha la consapevolezza l'informazione italiana in generalista, e credo anche un po' la politica in questo ritardo, sia pur comprensibile per evitare di rimetterci chissà quanto gettito e poi doversi esporre a fare nuove manovre nazionali, ma secondo me non c'è la consapevolezza dell'impatto vero che quelle migliaia di imprese hanno su il più della crescita breve del nostro paese. Se no, daremo più rilievo a quello che succede, daremo più attenzione alla richiesta degli imprenditori veneti, non li considereremo degli indiani che vogliono attaccare la diligenza pubblica, capite? Non è gente che sta occupando in questo momento le ville palladiane, e come nel resto d'Italia un po' di perdigiorno fanno con i monumenti. Mi dicono che io non rispetto le proteste altrui, ma che paese è un paese in cui improvvisamente si scatena la gara a finire sui tetti ad occupare i monumenti pubblici? Me lo dite? Cos'è, una prova di grande serietà? È una prova di grande buffonata collettiva, e tanto più è la classe dirigente ad aver incitato gli studenti a questo. Lo dico, gli insegnanti universitari, i ricercatori, i politici se ci vanno dietro, e ci sono andati dietro, tantomeno questo paese dimostra al mondo di essere capace di capire l'ABC di che cosa si chiede alle classi dirigenti: soluzioni capaci di risolvere i problemi, non atti dimostrativi in cima ai tetti. Maledizione, gli studenti sono arrivati dopo che ci sono andati i professori universitari e politici. Vogliamo capire che questo è un sistema auto-omicida? Preferisco chiamarlo così, perché io al suicidio per mano loro non ci voglio arrivare. Auto-omicida, si uccidono loro. Dopo sentiamo ancora Andrea da Milano. Prego Andrea. Sì, buongiorno Giannino, e complimenti per la sua splendida trasmissione. Mi vanto sempre di essere tra i 300.000 suoi fan di ogni mattina. No, no, ma niente complimenti, andiamo al dunque Andrea. Ma il dunque è questo: io non sono convinto che sia per una questione di opinione, e mi riferisco appunto alla parte iniziale del programma con l'intervento dell'amico Quintarelli. Non credo che sia una questione di opinione, una questione, diciamo, di blocco o di non comprensione di che cosa significhi internet. Io ritengo che questo paese abbia deciso, dopo la morte di Marisa Bellisario, di distruggere le telecomunicazioni in Italia. Non esiste più un centro di formazione, non esistono centri di eccellenza, e in questo momento ci ritroviamo con operatori che sono carichi di debito e che credono di poterseli far pagare da aziende come Google. E giustamente, come diceva Quintarelli, i veri coloro che creano veramente profitto sono i vari Google che hanno delle filiali in Italia. E fondamentalmente, oggi come oggi, con la crisi dell'advertising che stiamo vivendo, con appunto giornali, TV, eccetera, che vedono crollare del 20, 25, 30% i loro introiti in termini di advertising e inserzioni, l'unico canale che sta crescendo è internet, seppure con cifre molto basse. Ma questo è solamente me lo insegna lei, è solamente una questione di tempo a che il valore del singolo contatto ben profilato crescerà. Per cui secondo me questa mossa di dire che Giannino diventa una televisione è solo o Andrea diventerà una televisione, esatto, perché esatto. Anch'io sono nella sua stessa situazione, esatto. Come Stefano e come mille altri blogger che siamo in Italia, che cerchiamo di fare opinione e cercare di spiegare alla gente che non è Alice o Unifast che ci salva, certo, la vita, ma è probabilmente avere delle aziende che inventano l'iPad o che inventano delle applications di un certo livello. Poi qual tempo sta finendo, e quindi io sono in condizione di dover dire a Matteo da Viterbo, a Dario da Milano, a Luciano Vescovi, oltre a ringraziare gli altri ascoltatori, sono in condizione di promettere che continueremo a rompere le scatole con il giusto equilibrio. Avete sentito con quale equilibrio ha parlato il vicepresidente di Confindustria di Vicenza? Tutto il sistema di Confindustria in Veneto ha un tono molto responsabile. Noi, oltre a ringraziarli per quello che fanno, possiamo permetterci, io in particolare, di avere qualche eccesso in più. La mia opinione è che non dare una risposta entro oggi alle scadenze fiscali del 30 significa non capire che cos'è l'impresa in Veneto. E mi dispiace, non voglio pensare che sia Giulio Tremonti, ma se è lui il primo a non capire, non cambio idea e lo dico. Se sbaglia Tremonti, sbaglia Befera, sbaglia questo governo, bisogna avere la forza di dirlo senza pensare di che si contribuisce all'instabilità dell'Italia. Perché chi sbaglia a quel livello contribuisce all'instabilità, e chi lo dice fa qualche cosa per rimuovere il problema, non semplicemente per denunciarlo. Noi ci sentiamo lunedì, grazie a tutti, linea al giornale radio.